Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria continua a far discutere, ce ne occuperemo. Parliamo di acqua, quelli che alcuni considerano l'oro del futuro, vista la scarsità e la domanda altissima che arriva da alcuni paesi tipo Cina e India. Ma dicevo, continua a far discutere la campagna promossa dalla COP per promuovere appunto un maggior utilizzo dell'acqua di rubinetto. In realtà, come sempre, c'è chi anche vede in questo un elemento più critico, dice la COP vuole promuovere in realtà un loro oggetto, ma sarà l'occasione per ragionare. Molti di voi ce l'hanno chiesto in questi mesi, dell'acqua minerale e di quello che riguarda poi il consumo in Italia, i costi che ha questo consumo e soprattutto per quello che riguarda l'acqua, anche la bontà dell'acqua da rubinetto. Un tema assolutamente economico, di questo ci occuperemo subito in apertura. Ancora, per quello che riguarda invece la giornata economico-finanziaria, siamo di fronte ai mercati tutto sommato tranquilli, un po' incerti, se vogliamo dirla tutta. Meno 0,2% Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,21%, l'America più 0,20%, Milano guadagna lo 0,3% ancora e guadagna soprattutto, e ne parleremo, Fondiari Assai, di nuovo voci di possibile interessamento, soprattutto transalpino francese, più 5,6% il titolo, Tenaris più 2,7%, Telecom più 2,3%, CIR più 1,6%, ancora Finmeccanica più 1%, Atlantia più 0,80%, Unicredito più 0,6%, fronte opposto invece per quello che riguarda Azimut meno 2, Banco Popolare meno 1,7, Stimac Electronics meno 0,90, Pirelli meno 0,80%. E allora le notizie in breve, subito in apertura. Allora, dicevamo, oltre ai titoli, cosa fa l'euro? Beh, l'euro è sempre vicinissimo a quota 1,40 e non accenna a calare. Oltre che di acqua e del business dell'acqua, chiaramente, parleremo di Fondiari Assai, come annunciato, e poi di federalismo. Perché? Perché, insomma, sono uscite, le avete lette, le prime cifre, soprattutto sui dettagli a questo punto quasi tecnici, le addizionali IRPEF, il fondo di perequazione, i costi standard. Insomma, il federalismo è... se andrà tutto quanto in porto, sarà la vera rivoluzione anche di carattere fiscale. Questo dedicheremo la seconda ora del programma con l'uomo che sta tecnicamente, di fatto, aiutando la stesura della riforma, il presidente della commissione tecnica paritetica sul federalismo fiscale, e quindi dipende direttamente dal ministro Tremonti. Ancora volete sapere dell'oro, come va? L'oro è a $1,334, quindi non record, ma sempre fortissimo. Il petrolio è a $80 al barile, quindi leggermente alto rispetto alla media degli ultimi mesi. È salito ai massimi dal luglio del 2009 l'Euribor, ossia il tasso che le banche applicano fra di loro per i prestiti trimestrali. È salito lo 0,97%. E di nuovo c'è polemica sulla Cina e sul livello della valuta cinese. Perché dopo che praticamente mercoledì sera, l'abbiamo raccontato in diretta, è stata annullata a sorpresa la conferenza stampa che doveva esserci, come sempre, a conclusione del vertice Europa-Cina, praticamente all'inizio sembrava un motivo logistico, nessuno ci ha creduto, nemmeno noi. Adesso si è appreso che è stata la censura cinese a provocare l'annullamento della conferenza stampa. Le autorità cinesi avevano chiesto che fossero esclusi dai partecipanti alla conferenza stampa alcuni giornalisti cinesi di un media indipendente che si chiama The Epoch Times, che ha la sua sede a New York. E la Cina avrà tante qualità, le abbiamo raccontate andandoci molte volte, però sul fronte dei diritti siamo all'anno zero, o forse a meno dell'anno zero. Basta appunto un giornalista indipendente, dovrebbero essere tutti così, dovrebbero, per far annullare una conferenza stampa. Tra l'altro questo avviene, questa notizia arriva nel giorno in cui la Cina è furibonda, l'avete sentito nei nostri GR, per il premio Nobel alla pace al dissidente cinese Liu Xiaobo. E comunque dicevo, sulla valuta cinese oggi è tornato il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, dicendo: il livello dell'euro è troppo alto, non siamo soddisfatti dell'attuale tasso di cambio con la valuta cinese. Dopodiché, una volta che l'Europa dice di non essere soddisfatta, poco altro può succedere. La crisi in America, il dato sulla disoccupazione oggi, tutto sommato, non è bello, ma non è neanche brutto. Lo so che sembra una posizione pilatesca, è rimasta al 9,6%, 64.000 occupati in più, ci si attendeva un rialzo al 9,7%. Nel frattempo il governo di Tokyo ha varato un piano di rilancio da 44 miliardi di euro per un valore complessivo di 5.000 miliardi di yen, comprende misure per sostenere l'occupazione, aiutare le piccole e medie imprese e incentivare le vendite di prodotti tecnologici. Dall'economia internazionale a quella europea, Standard & Poor's, agenzia di rating che dà i voti sui debiti, ha abbassato di nuovo il voto su quello che è un vero e proprio pozzo senza fine. Mi riferisco alla banca Allied Irish Bank, portandolo a BB più da A meno. Cala invece l'export in Germania, meno 0,4% ad agosto e meno 1,6% a luglio. Soprattutto, e qui vedete che già si sentono gli effetti, la forza dell'euro ad aver penalizzato le esportazioni tedesche. Come vanno i risparmi, o meglio il potere d'acquisto degli italiani? C'è una lieve ripresa dei redditi, ma non abbastanza da far fronte alle spese. Sembra anche questa una contraddizione, ma insomma emerge dai dati diffusi oggi dall'Istat. Il reddito lordo delle famiglie è cresciuto dello 0,9% nel secondo trimestre dell'anno e dello 0,8% rispetto a un anno prima. Il potere d'acquisto però è aumentato rispetto al trimestre, ma è diminuito rispetto a un anno prima, insomma meno 0,7%, 1,5 miliardi di euro in meno da spendere per le famiglie degli italiani, e resta soprattutto di molto inferiore a quanto non fosse il potere d'acquisto delle famiglie italiane 2 anni fa. Siamo a un 5,7% in meno nel quanto a potere d'acquisto. E non a caso cala anche la capacità di risparmio degli italiani. E poi la lettera oggi all'appello del ministro dei beni culturali Sandro Bondi, dopo che il ministro Tremonti ha fatto capire che soldi non ce ne sono per i ministeri, per i trasferimenti, ha detto insomma attenzione, la situazione è drammatica quanto a risorse pubbliche per lo spettacolo, i fondi sono scesi da 400 milioni a 260 milioni. Queste le notizie in breve, dicevo, per quello che riguarda i temi, appunto l'acqua, Fondiaria SAI come interesse di mercato e poi il federalismo, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora cerchiamo di partire subito con un tema che già altre volte abbiamo affrontato, ma che torna, se vogliamo, di attualità dopo un'iniziativa sembrerebbe di carattere ecologista, può avere anche un elemento in realtà commerciale. Allora, vediamo di non fare demagogia, ma ragionare come sempre sui numeri. Allora, la Coop ha annunciato l'avvio di una campagna pubblicitaria per promuovere un maggiore utilizzo dell'acqua di rubinetto. La nuova campagna si chiama Acqua di casa mia, presentata ieri da Milano, se ne sono occupati anche i nostri GR. Ridurre i costi di inquinamento che derivano dal trasporto dell'acqua, questo è l'obiettivo della campagna. In realtà, insomma, noi beviamo l'acqua, poi la beviamo anche in maniera un po' strana, cioè i milanesi bevono l'acqua dei romani, i romani bevono l'acqua dei milanesi. Fatto sta che ci sono 480.000 tir ogni anno che trasportano l'acqua, messi uno accanto all'altro formerebbero una fila di 8.000 km, praticamente andata e ritorno da Roma a Mosca. Allora, se si bevesse acqua di rubinetto, per ipotesi assurda scomparisse il mercato delle acque minerali, avremmo un calo di emissione di anidride carbonica di 250 volte, perché praticamente per trasportare 100 litri d'acqua per 100 km ci sono, vengono emessi 10 kg di anidride carbonica. Allora, i costi, beh, insomma, 0,5 millesimi di litro l'acqua del sindaco, quella del rubinetto, 50 centesimi di euro al litro, quella in media della bottiglia. E per quello che riguarda il consumo, noi siamo i primi in Europa e terzi al mondo dopo Emirati Arabi e Messico. Ne beviamo più del doppio della media europea e anche della media americana. Ora, Emirati Arabi, chi li conosce sa che hanno un problema idrico enorme, anche in Messico. Però noi, insomma, si capisce un po' di meno. 12 miliardi e mezzo di bottiglie ogni anno, di cui un miliardo di bottiglie le esportiamo. 300 le etichette. C'è un calo del 5% quest'anno nel consumo di acqua da bottiglia, ma soprattutto l'indagine di Altro Consumo segnalò tempo fa che praticamente la bontà dell'acqua di rubinetto in 13 città su 34 aveva ottenuto il massimo dei voti, pur di fronte anche a aumenti nel costo dell'acqua. Allora, questi dati, ringrazio per averci aggiunto in collegamento Mauro Latini, che è vicepresidente della Coop Italia. Buonasera. Buonasera, ringrazio anche io. Voi siete la prima grande catena di distribuzione in Italia, 12 miliardi di fatturato, 56.000 dipendenti. Grazie anche al presidente di Mineracqua, che è la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali, Ettore Fortuna. Buonasera anche a lei, presidente. Buonasera. Allora, dottoressa Latini, l'obiettivo della vostra campagna, bellissimo, ci mancherebbe, avete raddoppiato le fonti di approvvigionamento dell'acqua a marchio aggiungendo altre due sorgenti, come quello che voi vendete, però, e questo vi permetterà, se ho ben capito, magari ce lo racconta lei, anche di abbassare la distanza media delle bottiglie che le bottiglie devono compiere, quindi 235.000 km in meno, ossia 388.000 kg di CO2 di anidride carbonica non emessi. Ma il sospetto è che voi in questa campagna vogliate in realtà lanciare la vostra caraffa filtrante dell'acqua. Allora ci dica quanto è ecologismo e quanto invece marketing. Marketing non è. Noi cerchiamo di dare delle informazioni il più possibile ampie, il più possibile complete ai nostri clienti, ai cittadini in questo caso, per suggerire una riflessione sul consumo delle acque. Il consumo delle acque nel mondo, non solo in Italia, si è moltiplicato in maniera esponenziale negli ultimi anni. Noi siamo dei grandi consumatori, l'ha già detto lei, noi siamo anche dei grandi dispersori, un termine brutto, di acqua, ma i nostri acquedotti devono essere migliorati perché non sono efficienti. Quindi chiediamo di riflettere su vari aspetti, compreso la qualità delle acque, perché l'acqua minerale è assolutamente diversa dall'acqua del rubinetto, sono due prodotti diversi che danno risposte a necessità e a bisogni diversi, però comunque una riflessione di fondo crediamo che il cittadino la possa fare, anche per il fatto che l'acqua in bottiglia ha un impatto ambientale decisamente forte, non ripeto i numeri che lei ha già detto perché sono emblematici. Il lavoro che noi abbiamo fatto sulle nostre fonti è per cercare di essere conseguenti e coerenti e quindi avvicinare l'acqua minerale, che noi non vogliamo assolutamente escludere, anzi, ma nei nostri assortimenti sarà presente come lo è sempre stata, il più possibile al luogo del consumo. Non a caso l'abbiamo chiamata la campagna Acqua di casa mia. Per noi casa, per Coop, casa non è solo la casa fisica, è il territorio, le cooperative sono molto radicate nel territorio e quindi vorremmo valorizzare le acque del territorio, laddove queste danno delle risposte concrete ai bisogni dei consumatori e comunque far riflettere i cittadini su come si consuma l'acqua e aiutarli anche a sprecarne di meno. Certo. Di meno. La caraffa, mi scusi, è un di cui, è un aiuto che vogliamo dare a chi fa una scelta, se la vuole fare, di consumare l'acqua del rubinetto. Abbiamo fatto una caraffa a marchio Coop perché crediamo di contribuire ad abbassare i prezzi di vendita delle caraffe filtranti. Infatti il nostro prodotto avrà un prezzo molto più basso del prodotto lì. No, no, è solo che notavo la coincidenza, chiamiamola così, tra la vostra campagna di sensibilizzazione sull'acqua, diciamo, di casa tua e il lancio della caraffa a marchio Coop per filtrare l'acqua. E siccome di coincidenze, alle coincidenze noi non crediamo, immaginiamo che sia un'operazione congiunta. Ma va bene tutto, cioè, non è che mi interessi sapere che voi cercate anche, cioè, immagino che non facciate una campagna per bere l'acqua di rubinetto vendendo voi l'acqua minerale così, come impeto in qualche modo etico ed ecologista. Le chiedo, quando lei parla di acqua di casa mia, vuol dire che questi impianti, cioè Grigna in provincia di Lecco, Monte Cimone Modena, Val Cimoliana Pordenone, Angelica Perugia, nelle COP in queste aree verrà venduta prevalentemente l'acqua delle aree locali dove viene prelevata? Allora, nelle fonti servono a diminuire i chilometri percorsi alla nostra acqua Coop, quindi le fonti serviranno i negozi in un raggio compatibile di chilometraggio. Ne avevamo due, sono diventate quattro, quindi i numeri li ha già detti lei, diminuiamo molto i chilometri percorsi, ma questa scelta l'abbiamo fatta per essere coerenti e conseguenti all'affermazione generale. Il consumatore rifletti sul tipo di acqua che compri, scegli l'acqua che ti piace e serve per la tua salute e rifletti anche se puoi fare una scelta compatibile con l'ecologia facendo percorrere meno chilometri. Può essere l'acqua Coop, ma ci sono una quantità di acque locali molto molto importanti, per fortuna, che sono una ricchezza dell'Italia, noi ne abbiamo in assortimento. No, ma questo l'abbiamo detto. No, una cosa, vorrei capire, questa può essere una nuova strategia, le spiego perché. Perché Beppe Grillo da anni si concentra sull'acqua e su altri prodotti che noi utilizziamo sbagliando, secondo lui. Allora, siccome voi sostanzialmente dite, no, è inutile che tu compri l'acqua che noi abbiamo, o cerca di comprarla vicino a casa mia, o se no comunque verifica quanto buona è l'acqua di casa tua. È interessante perché potreste fare la stessa cosa, non so, anche per il colluttorio. Non comprate il colluttorio, che tanto, voglio dire, basta andare in farmacia e con una piccola soluzione che si compra in farmacia risparmi tanti soldi. Cioè, sarebbe una prima volta che la catena invita i consumatori a non comprare beni che poi lei stessa ha in commercio, no? Ma noi lo facciamo già da decenni con l'ortofrutta, per esempio, con la carne. La stragrande maggioranza dell'ortofrutta venduta nei punti vendita Coop ha origine italiana, ma molta con una vicinanza molto marcata al territorio, ai negozi in cui questa è venduta. Proprio nell'ottica di dare un concreto aiuto ai territori, ma al tempo stesso ridurre il chilometraggio, nel caso dell'ortofrutta, a vantaggio della freschezza, a vantaggio delle produzioni locali, in alcuni casi anche a vantaggio della qualità. Quindi quello che facciamo sull'acqua è fatto su un prodotto che secondo noi può permettersi questa specificità, sempre tenendo di conto che poi ci sono scelte del consumatore, motivi di salute, caratteristiche qualitative delle acque che invece suggeriscono scelte completamente diverse. No, vabbè, ma guardi, a noi interessa il caso, cioè non il caso, interessa il caso della più grande catena di distribuzione in Italia che invita i suoi clienti a non sostanzialmente a comprare un po' di meno i prodotti che vende. Allora, Presidente Fortuna, intanto vorrei sapere se la cosa l'ha fatta arrabbiare. E poi vorrei sapere, con tutto, noi ascoltiamo tutte le opinioni, se lei crede alla versione che giustamente ha esposto il vicepresidente di Coop Italia, Mauro Latini. Ma guardi, noi, chi lavora nell'industria, fa poco retrospettive o indagini, dietrologia, diciamo. Io sto ai fatti. La dottoressa Latini ha detto le cose anche molto corrette. La prima tra tutte è che una cosa è l'acqua minerale e una cosa è l'acqua potabile, sono due acque diverse, non paragonabili. Infatti questo paragone che viene fatto, anche spesso lo leggiamo sui giornali, è improprio ed è fortemente ingannevole per il consumatore, perché il consumatore deve sapere che quando beve un'acqua del rubinetto beve un'acqua assolutamente diversa da quella minerale, perché quella minerale viene da un giacimento protetto, è pura all'origine, è imbottigliata alla sorgente e ha un'etichetta che ti dice che cosa contiene. E soprattutto non può derogare i parametri di legge, nel senso che deve rispettare i limiti di concentrazione di certi metalli pesanti o contaminanti o inquinanti che siano. L'acqua potabile invece può venire anche da fiumi o da laghi, poi viene potabilizzata, poi viene disinfettata con il cloro e sappiamo che il cloro a contatto con l'acqua, comunque i derivati del cloro, producono delle sostanze che tradotte si chiamano cloroformio e bromoformio. Quindi quando tu bevi un bicchiere di acqua e rubinetto assumi le tracce anche minime ma di cloroformio e bromoformio, così come assumi tracce per esempio di contaminanti di origine antropica dovuti all'attività dell'uomo, tetraclorotilene. No, ho capito, però sa, la mia risposta potrebbe essere facile: anche comprare l'acqua in bottiglia che per delle settimane al caldo o sotto il sole. Poi io non capisco bene cosa sto comprando, perché immagino che l'acqua meno sta al caldo, meno viene tenuta in magazzino, migliore sia. Però, diciamo, dopo le informazioni meteo e la pubblicità, vorrei chiedere a lei, Presidente Fortuna, se comunque, io capisco che lei rappresenta l'industria del settore, ma forse avete battuto un po' troppo con queste acque minerali. Noi siamo il primo paese in Europa, ma non è tanto essere i primi. Ne consumiamo il doppio della media. Ora, non penso che tutti i francesi, gli spagnoli, i tedeschi si stiano avvelenando ai rubinetti. Insomma, abbiamo un consumo che delle volte non riusciamo a capire perché così alto, 195 litri al abitante di acque minerali comprate, una media vicinissima a quella messicana e saudita. Mentre vorrei chiedere dopo alla dottoressa Latini, o meglio, fare i complimenti, perché comunque voi un risultato l'avete raggiunto, questo è il mio poi sospetto, cioè è da 24 ore che i media parlano di voi, un costo, gratuitamente avete ottenuto una copertura, un'immagine aziendale, insomma tutte cose che sarebbero costate soldi, investimenti pubblicitari. Quindi se lei la ritiene anche una intelligente, creativa operazione di marketing e quindi di pubblicità. Allora, Presidente Fortuna, lei rappresenta le industrie produttrici, sono 5 miliardi di euro il giro d'affari, se non vado errato. No. Quanto è di 2 miliardi e 500 mila euro, tanto per prima cosa. Seconda cosa, vorrei correggere un dato che non credo che l'abbia detto la COP, ma l'ha detto lei. Mm-hmm. Il prezzo medio di un litro di acqua minerale in Italia non è 50 centesimi, è 20 centesimi. Cioè, noi abbiamo preso tutti i rapporti altro consumo alle gambiette, vabbè, comunque ci fidiamo anche del suo. Sono io che do i dati, va la bene, fonte sono tranquillo. Io. 20 centesimi, comunque 20 centesimi. Contro i 0,5 millesimi al litro dell'acqua. Tanto per dire, primo, prego. Abbiamo detto che sono acque diverse. Oh, siccome giustamente, correttamente, la COP fa un discorso di, venire incontro allo sviluppo sostenibile, c'è da dire che noi da anni stiamo lavorando sullo sviluppo sostenibile. Abbiamo ridotto il peso delle bottiglie, noi, non la COP, noi abbiamo ridotto il peso con tecnologia innovativa. Abbiamo ottenuto dal Ministero un decreto che ci consente di utilizzare nella fabbricazione di nuove bottiglie fino al 50% di PET riciclato, di plastica riciclata, perché è una plastica riciclabile, perché noi mettiamo in commercio solo ed esclusivamente plastica riciclabile. Mi risulta che nei vari magazzini, nei vari supermercati si metta in circolazione 3 volte tanto di plastica che non si ricicla, che finisce nella spazzatura. Noi trasportiamo su ferrovia il 15% della nostra produzione contro una media nazionale del 5%. Allora noi dei grossi contributi li abbiamo fatti. Ora, se questa politica, che possiamo anche condividere, va avanti, ci aspettiamo che vada avanti non sull'ortofrutta, ma vada avanti su tutta una serie di altri prodotti che giungono da 3, da 4, 500 km. E qual è? E finisco. Ma allora la riflessione da fare è un'altra. È che, attenzione, le imprese di marca nazionale non esisteranno più, quindi crolleranno occupazione, crolleranno istituti di ricerca che lavorano per queste imprese, si ridimensioneranno, perché allora la marca nazionale non ha più senso di avere una marca nazionale che c'ha dietro investimenti in ricerca, in studi, in tecnologia, in risorse umane, e ci approvvigineremo tutti a chilometro zero. Poi il concetto di chilometro zero mi piacerebbe conoscerlo, perché non si capisce cosa vuol dire chilometro zero. Un chilometro, 100 chilometri, 1000 chilometri. Allora, due cose. Le segnalo, Presidente Fortuna, che quando ha detto 20 centesimi al litro, forse la produzione, perché... Il prezzo medio nelle catene dei supermercati, il prezzo medio in Italia, medio, dati IRI Infoscan, è 20 centesimi. Nei supermercati ci sono acque che al litro costano 13 centesimi, 14, sono le acque di primo prezzo. Tant'è vero, le do un dato. Sì, mi scusi, mi dice... Una famiglia media italiana, se consuma un'acqua di primo prezzo, spende all'anno 67 euro per l'acqua minerale. Questi sono numeri dati da IRI Infoscan, che è una società che fa questo mestiere. Mi dice dove va, dove abita, che così vengo a comprare l'acqua, dove sta lei? Guardi, se lei esce adesso dagli studi, va in qualsiasi supermercato, trova le acque di primo prezzo, va bene? Le trova. Vabbè, sarà che ho sfiga io, Fortuna, perché io la pago, la vado a fare la spesa e la bottiglia d'acqua a 20 centesimi non l'ho mai pagata, ma ripeto, abiterò io in una zona sfigata. Poi, per carità, non è che sto dando la colpa a voi, c'è giustamente il guadagno del distributore, il guadagno del commerciante finale, magari costa sicuramente di meno nella grande catena e un po' di più se la vai a comprare, diciamo, nell'alimentare sotto casa, però insomma io a 20 centesimi non l'ho mai trovata. Fermo restando questo, adesso non voglio fare una puntata sul prezzo dell'acqua, vorrei girare invece la sua osservazione. Lei non mi ha risposto su una cosa, però: perché ne consumiamo così tante in Italia? Il doppio della media europea. Noi ne beviamo tanta, che poi la beviamo quanto i tedeschi e quanto i francesi, non è che siamo lì, la differenza sono un 100 milioni di litri, perché veniamo da una tradizione di terme, veniamo da una tradizione salutistica, abbiamo un patrimonio di acque minerali enorme, con caratteristiche e proprietà diverse, quindi abbiamo una tradizione, ma non è una colpa bere l'acqua minerale, attenzione, no, ha capito? Perché qui stiamo arrivando a considerare no, l'acqua minerale. Ma non vi sentite sotto accusa, ci sono obiettivamente, no, ho capito, la campagna mica l'abbiamo fatta noi, però ci sono 480.000 tir che ogni anno trasportano l'acqua. È chiaro che abbiamo una media che è doppia. Adesso non è che Fortuna, non possiamo contestare tutte le cifre, il consumo italiano è doppio della media europea, siamo terzi al mondo, non siamo terzi in Europa, siamo terzi al mondo dopo l'Arabia Saudita, cioè gli Emirati Arabi e il Messico. Scusi, ora capisci, pazienza, scusi, lei dà dei dati, no? I dati li deve sapere interpretare. Terzi al mondo perché Arabia e Messico sono paesi come consumi pro capite, capisce? Perché sono pochi abitanti in un territorio molto caldo. Ma se lei vede i consumi italiani, sono assolutamente in linea con quelli tedeschi e con quelli francesi. Beh. Poi vengono gli spagnoli. Quindi non siamo un fenomeno, capisce? Siamo nella normalità europea. Comunque mi piaceva molto di più la domanda che lei ha rivolto a Mauro Latini, appunto la vicepresidente di Coppa Italia, e che è molto sottile, Latini, è per questo che mi piace, mettiamola così. Lei dice: attenzione, se iniziamo col principio di quanto inquina il bene trasportato, noi abbiamo fatto alcune operazioni, abbiamo ridotto di molto quello che è il peso delle bottiglie, abbiamo anche cercato, lo dico, Acqua Sant'Anna, che ha fatto un'operazione, se non ricordo male, con le bottiglie completamente fatte di materiale riciclato, comunque non è stato possibile, però noi abbiamo ridotto il peso delle bottiglie, usiamo il treno 3 volte più della media nazionale per il trasporto di queste merci e quant'altro. Se però passa questo principio, allora voi dovete essere coerenti come Coop e iniziare a dire che tutto quello che può essere comprato, allora il prosciutto crudo, non impacchettiamolo più con la plastica, che c'hai 100 grammi di prosciutto e 200 grammi di plastica, valla a comprare dall'alimentarista sotto casa nella carta, cioè, capisce? Loro dico, il principio ci può anche star bene, ma loro lo applicate a tutto. E allora addio packaging, e aggiunge Fortuna, addio anche i marchi diciamo alti e forti, perché quelli tendono ad avere anche un packaging più importante. Ma noi cerchiamo di farlo da tempo, da sempre, laddove è possibile, più possibile, laddove la ricerca scientifica ci aiuta. Non a caso, con un anno d'anticipo rispetto all'entrata in vigore della legge, non sappiamo neanche se sarà rispettata, già nell'80% dei nostri negozi non vendiamo più buste di plastica, ma vendiamo buste biodegradabili di materiale compostabile. abbiamo già iniziato e continueremo a farlo, a disimballare tra virgolette i nostri prodotti, soprattutto per quanto riguarda l'imballo secondario. Quindi la nostra azione sull'ambiente viene da lontano e cercheremo di farlo il più possibile laddove possibile. Questo lo possiamo fare anche avendo un rapporto costruttivo con l'industria, con tutta l'industria. Ridurre gli imballi è un interesse nostro, ma è un interesse anche dell'industria. No, ma se ho capito il ragionamento di Fortuna, lui dice, a parte il fatto che vedo decine di messaggi, Fortuna sarà contento, alcuni dicono che costa ben più di 20 centesimi, molti altri invece dicono che costa 23, 16, 26, quindi cifre vicine a quelle che ha detto lei, 14 in alcuni casi, per cui noi diamo tutto quello che riceviamo. Però, dottoressa Latini, se ho ben capito il ragionamento di Fortuna è non, o lo fate con tutti, oppure non ve la prendete solo con l'acqua, perché è facile, però poi allo stesso tempo voi stessi vendete tantissimi prodotti il cui imballaggio è alto, il chilometro è tutto tranne che zero, e anche lì uno può suggerire, guardate che non so, il pane vallo a comprare sto casa del panettiere, così non usi la macchina per andare all'Ipercoop e anche lì consumi CO2, no? Cioè, questo forse mi sembra di poter dire, non a difesa, ma per interpretare le parole del presidente di Mineracqua. Ma capisco perfettamente, ma noi non abbiamo fatto un'iniziativa contro qualcosa, noi abbiamo fatto un'iniziativa per trasparenza, dare informazioni sul consumo dell'acqua, con la speranza che i consumatori italiani ne consumino ancora di più, perché tutti i nutrizionisti ci dicono che dobbiamo bere ancora più acqua. Quindi questo lo vorrei mettere in testa, perché non sarebbe sbagliatissimo passasse il messaggio dobbiamo consumare meno acqua. Dobbiamo consumarne di più riflettendo su cosa, scegliendo e lavorando insieme, in questo caso anche con l'industria, per risolvere alcuni problemi ambientali che effettivamente ci sono innegabili. Per quanto riguarda sul chilometro zero, allora il chilometro zero è uno slogan molto efficace, ma che nella sostanza ha poca possibilità di una concreta realizzazione su tanti prodotti, su alcuni di più, su altri meno. Ho fatto l'esempio dell'ortofrutta, se c'è la volontà si può fare come fa Coop e lavorare. Ecco, mi scusi su questo, mi dica una cosa, voi per esempio frutta cilena la vendete o no? Soltanto quando è in controstagione, intendo dire. Ma non sarebbe, non avrebbe più senso, diciamo, per essere creduti completamente, dire noi non vendiamo frutta fuori stagione? Sarebbe un messaggio molto importante, ma non darebbe quelle risposte ai consumatori che oramai sono abituati, anche per colpa della grande distribuzione, a non conoscere più le stagioni in alcuni casi, o comunque a volere i prodotti durante tutto l'arco dell'anno. Però anche su questo fronte stiamo cercando di fare informazione. Abbiamo una campagna che si chiama in questo caso Guadagnare Salute, con il Ministero addirittura della Salute, che cerca proprio di dare informazioni su qual è la frutta nel momento in cui c'è la produzione. Però mettiamola così, dottoressa Latini, diciamo che io personalmente, lo sa il presidente Fortuna, ne abbiamo già parlato altre volte, ritengo che in Italia si consumi troppa acqua da bottiglie di plastica, e lo dico mentre ho appena bevuto un po' d'acqua da una bottiglietta di plastica, per cui faccio anche il disclaimer, e ritengo che i dati siano troppo alti, che soprattutto sul trasporto, Fortuna, si potrebbe pensare a una campagna anche vostra di cercare di bere l'acqua, perlomeno quella che arriva da più vicino. Veramente non ha senso bere l'acqua romana a Vicenza e l'acqua vicentina a Roma. Detto ciò però, dottoressa Latini, mi faccia anche dire che insomma, se dovete fare una campagna così per non avere il sospetto che sia marketing, per altre cose, fatela anche quando vi costa qualcosa. Cioè, è chiaro che se io non trovo l'uva cilena vado a comprare da un'altra parte, però questo vi renderebbe ancora più credibili, se mi passa il suggerimento, nei confronti di una campagna importante e importantissima. Adesso però c'è la borsa con una notizia proprio di qualche istante fa che arriva dall'America. Perché? Perché il Dow Jones ha superato per la prima volta gli 11.000 punti, non capitava dal 6 maggio, cioè quando era scoppiato l'attacco, diciamo, speculativo contro Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda e anche in qualche modo Italia, quindi dalla tensione sui debiti sovrani. Quindi Dow Jones sopra gli 11.000 punti, Milano ha chiuso con un rialzo dello 0,3%, Francoforte più 0,2%, Londra invariata, Parigi la più debole a meno 0,2%. L'euro è sempre 1,39 ma non più vicino a 1,40, è più vicino a 1,38,9. E allora Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da Fondiaria SAI, caso di borsa oggi, ancora più dei giorni scorsi, perché il titolo ha guadagnato il 6,5%. Sì, esattamente, il titolo Fondiaria SAI è stato assolutamente il protagonista della seduta odierna, il migliore tra le blue chip, come ricordavi tu, con un rialzo del 6,5%. La motivazione è tutta nella speculazione su possibili modifiche nell'azionariato della società, dopo la notizia resa nota oggi che il finanziere Breton et Vincent Bolloré è salito ulteriormente nel capitale della controllante Prema, fine è arrivato al 2,385%. Sì. E di questo parleremo anche più avanti, perché abbiamo un approfondimento apposta, perché l'interesse è molto francese, non solo Bolloré, certo. Si parla anche di Groupama, forse di AXA, ne parliamo dopo le 18. Andiamo avanti con i titoli, però era importante perché insomma il balzo è stato fortissimo. Mi ricordo solo che anche Prema Fine è salito del 7,9%. Stavo arrivando, infatti, i migliori e peggiori, dove Prema Fine è il secondo miglior titolo più 7,90, prima Kerseff più 8,95. E il terzo miglior titolo in assoluto è Fondiaria SAI, appunto. Poi Milano Assicurazioni più 5,80, Safilo più 5, Sabaf più 4,5, facciamo quindi i migliori e peggiori. Fiera Milano il peggiore meno 4,60 e poi Crédit Agricole meno 3,20. Torniamo ai titoli più grossi. Bene Tenaris, qui ci sono attese di dati positivi, se ho ben capito. Sì, Tenaris, oggi sul mercato si sono state diffuse alcune nuove stime che hanno sostenuto il titolo, si parla di un lieve taglio delle stime di utile per azioni medie del mercato per il 2010, ma di una consistente correzione al rialzo delle stime per il 2011 e il 2012. Le nuove previsioni parlano di volumi maggiori in arrivo per la società, al netto di stime più conservative per quanto riguarda i prezzi. Comunque sono previsioni che sono state accolte bene dal mercato, previsioni ovviamente diffuse dalle banche d'affari che oggi hanno sostenuto il titolo, che è salito del 2,57%. Ancora, andiamo avanti con i titoli. No, sorrido perché continuo a vedere decine di messaggi sull'acqua che non riesco a questo punto nemmeno a seguire visivamente. Cercherò di fare il punto poi durante la pausa del GR. Andiamo avanti con Telecom Italia più 2%, e qui ci sono indiscrezioni anche abbastanza sostenute sul Via Libra che dovrebbe arrivare, se ho ben capito, dall'Argentina per quanto riguarda la partecipazione in Telecom Argentina. Sì, esattamente, secondo indiscrezioni di stampa della mattinata è ormai imminente, se non già arrivato in queste ore, il via libera delle autorità argentine al consolidamento della partecipazione di Telecom Italia in Telecom Argentina in base all'accordo raggiunto con la famiglia Vertani. Il gruppo di TLC ha precisato in serata che ad oggi non è pervenuta alcuna autorizzazione formale, ma insomma ormai il sentimento del mercato è che questo via libera sia imminente, che quindi l'operazione di Telecom in Argentina possa avvenire ed essere consolidata, un'operazione che è conforme alle strategie del gruppo in Sud America, e quindi il titolo oggi ne ha risentito positivamente guadagnando il 2,06%. Ok, ancora sui titoli, al di là dei primi tre che abbiamo appena ricordato bene anche CIR, qui mi sembra che sia stata smentita l'ipotesi di nuovi soci, però il titolo guadagna 2%. Esattamente, è arrivata la smentita di nuovi soci per la controllata Sorgenia, ma il titolo che era partito bene in mattinata proprio sulla scia di queste indiscrezioni ha continuato a salire, ignorando un po' le smentite, guadagnando quasi il 2%. Ancora, Finmeccanica più 1,31, Unicredito più 0,80, Ansaldo più 0,80 e Fiat più 0,70. Chi va male oggi in borsa? Azimut meno 2, ma qualche realizzo. Banco Popolare meno 1,5, Luxottica meno 0,90, Pirelli meno 0,80%. E lo 0,70 lo perde Mediaset, lo 0,60 Exor e Campari. Mezzo punto percentuale di calo per ST Microelectronics e Impregilo. Direi a questo punto Azimut. Sì, Azimut è stata la peggiore tra le blue chip, un calo dell'1,97, come ricordavi tu, si tratta in parte di prese di beneficio, dato che il titolo era salito in vista della pubblicazione dei dati sul risparmio gestito qualche giorno fa. Inoltre oggi è arrivato un giudizio negativo da parte di Banca Akros, che ha tagliato il giudizio sul titolo e anche l'obiettivo di prezzo, spiegandolo con un possibile impatto delle nuove normative, del nuovo regime fiscale per le controllate estere che entrerà in vigore. In particolare il nuovo regime amplia la casistica in cui alle controllate estere delle società italiane potrà essere applicato il trattamento fiscale in vigore in Italia, e questo ovviamente può avere impatti anche soprattutto nelle società di gestione del risparmio che hanno molti attivi in Lussemburgo. Sì, sono quasi tutte SICAV lussemburghesi per motivi fiscali. Grazie, buon fine settimana ai colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie nel caso specifico a Paolo Paronetto. Grazie a voi, buon fine settimana. Continuiamo con la borsa, non tanto per il commento generale, lo ricordo che si fosse appena messo in collegamento, più 0,3% Milano, ma per il caso specifico di Fondiaria Assai. Pochi istanti fa la Consob ha fatto sapere che ha in corso i consueti accertamenti del caso proprio in merito all'andamento del titolo Fondiaria Assai in borsa, oggi più 6,5%, perché secondo quanto riferito da ambienti vicini alla Consob, che è ancora senza presidente, ma per fortuna continua a lavorare, riguardano l'analisi consueta dell'operatività sul titolo, cioè chi ha comprato, chi ha venduto, come si sono concentrati gli scambi, se limitati a pochi soggetti o invece diffusi su una platea più vasta di investitori. Insomma, questo anche, e anche sulla notizia dell'ingresso di Bolloré in Premafin, che da quando è arrivata questa notizia, lo scorso 28 settembre, il rialzo di Fondiaria Assai è a due cifre. Allora, su questo ringrazio per averci raggiunto in collegamento Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Antonella, buonasera. Buonasera. Sentiamo intanto Vincent Bolloré, finanziere francese molto noto, vicepresidente delle Generali, secondo azionista di Mediobanca attraverso Financier Duperguet, e col 5%, e che ha aumentato la sua quota, è passato in Premafin, che controlla il gruppo Fondiaria Assai, al 2,4%. Noi crediamo molto nell'Italia. Abbiamo iniziato a investire 10 anni fa in Mediobanca, Generali e un po' anche in altre istituzioni finanziarie. Si tratta di qualche milione, non sono somme considerevoli, ma dimostrano e testimoniano il nostro interesse e soddisfazione per l'economia italiana. Il gruppo ha investito qualche centinaia di milioni in Mediobanca, qualche decina di milioni in Generali e ne metteremo ancora un poco in Premafin. Avete dedicato molto spazio sui giornali e ve ne ringrazio, ma si tratta di un piccolo investimento. Sono solo investimenti, siamo un gruppo familiare, siamo presenti in Italia da 10 anni. Piano piano aumentiamo le nostre quote, ma siamo molto tranquilli e modesti. Non abbiamo mai dato fastidio a nessuno. Rispettiamo sempre gli equilibri. Allora, Antonella, loro rispetteranno anche gli equilibri, ma il mercato scommette, al di là dell'inchiesta della Consob, che qualcosa stia succedendo. Le ipotesi che sono circolate riguardano, se ho ben capito, sempre comunque dei soggetti francesi. Non necessariamente, perché è una situazione totalmente in evoluzione. Diciamo che c'è una situazione di un investitore, come dice lui, Bolloré, sì, è un piccolo investimento, infatti finora, insomma, 7-8 milioni, non di più, ha speso per conquistare questa piccola quota in Premafin, però non è un investimento razionale. Se fosse solo un investimento, così, senza uno scenario, un'idea alle spalle, perché Premafin vale 3 volte il valore degli asset che ha in pancia, quindi siccome sono anche quotati questi asset in pancia, in particolare la Fondiaria Assai, non avrebbe senso comprare a un prezzo triplo rispetto al valore per divertimento. È brava Antonella a farlo notare. Tra l'altro, Fondiaria Assai è il terzo gruppo assicurativo italiano, è primo nel settore immobiliare, 1250 agenzie, 1 miliardo di euro di capitalizzazione, controlla tra l'altro Milano Assicurazioni, e non è un caso che oggi i 3 migliori titoli si chiamino Premafin, Fondiaria e Milano Assicurazioni. 7,90 Premafin, 6,5 Fondiaria, 5,90 Milano Assicurazioni, e ha debiti per 1 miliardo e 700 milioni, di cui 1 miliardo li deve a Mediobanca. Come azionista di riferimento la famiglia Ligresti, questa cosa nota, che ha il 41% del capitale. Tu dicevi strana l'operazione di Bolloré, quanto alle ipotesi, perché molto si è detto anche di Groupama. Sì, certamente, perché Bolloré in Mediobanca è arrivato in cordata anche con Groupama, che è un gruppo assicurativo francese abbastanza importante, non ha una grande presenza finora in Italia, diciamo che ha preso da Generali la nuova Tirrena, ma forse non è abbastanza per le sue ambizioni, ma la mano di Fondiaria, diciamo, è contesa da molti all'estero se fosse disponibile, ci sono anche gli svizzeri di Zurich oppure i tedeschi di Munich Re, per quello che mi risulta. Ecco, diciamo che il punto è che la famiglia Ligresti non pare intenzionata a cedere, però il punto è riesce a tenere il gruppo nell'attuale configurazione con questi debiti. Anzi, Mediobanca dovrebbe essere alleata di Ligresti per a supporto di questo intento della famiglia, almeno l'intento è quello di tenere la terza compagnia assicurativa in Italia, visto che ne sono già passate alcune all'estero, forse ha anche un senso, però il problema sono un po' i debiti nella parte non quotata, che non consentono grande flessibilità, diciamo, e un po' il problema dei margini di solvibilità della compagnia, che sono per ora nella norma, ma le aspettative degli analisti sono che debbano andare in peggioramento. Infatti la compagnia ha messo in cantiere un piano di dismissioni che però non sono arrivate per il momento a concretizzarsi. C'è la Liguria Sasa, ci sono degli immobili, non è un gran momento per vendere, diciamo, perché il coltello dalla parte del manico ce l'hanno gli acquirenti. Ecco, acquirenti, che io voglio far notare una cosa, quando praticamente un mese fa è stato il nostro ospite Christophe Bouzeau, che è il nuovo, era stato appena nominato il nuovo amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, quindi la parte italiana, così ci aveva risposto alla domanda, insomma, se loro avessero intenzione o meno di fare acquisizioni sul mercato. Abbiamo obiettivi di sviluppo che sono chiari. È vero che la crescita organica fa parte dell'obiettivo e si vede che possiamo farla. Abbiamo anche sempre detto che il mercato italiano era per noi un mercato molto importante, che il gruppo guarda come un mercato molto importante a livello del gruppo, quindi con la possibilità di valutare tutte le opportunità che il mercato darà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi l'obiettivo si farà con queste possibilità. Ma anche, voglio dire, fare shopping. Vediamo che in questo periodo, complice anche la crisi, molti grandi gruppi stanno facendo acquisizioni, lanciano offerte. Insomma, i prezzi sono buoni, non solo nel mercato immobiliare. Fa parte delle possibilità, è vero. Non è un'informazione da ieri, ma è sempre vero. Quindi anche con acquisizioni. Se le dicessi Fondiaria Sai, su cui voi avevate mostrato un interesse nel passato, c'è ancora? Non farò commenti su questo, neanche su altre possibilità. Tutto si valuta. Ok, per cui anche Fondiaria Sai, volendo, si può valutare, diciamo. O no? Tutto si valuta, tutto si vede. Tutto si vedrà, quindi non mi vuole dire né sì né no. Però insomma è le dimensioni, diciamo, non Fondiaria, ma le dimensioni sono quelle che interesserebbero a voi come gruppo? Come l'ho detto, senza commento, senza commento. Tutto si valuta, cara Antonella Olivieri, mi sembra che anche il mercato ci creda, Antonella. Sì, ecco, diciamo che è da monitorare attentamente la situazione, perché ci sono degli interessi che possono essere confliggenti e che a un certo punto potrebbero anche diventare invece convergenti. In questo momento c'è un tentativo di sistemare la situazione in modo da trattenere l'assetto di controllo attuale, però questo vuol dire intanto che il gruppo non sarà comunque esattamente come era prima, perché per esempio la Liguria, se riescono a venderla, la venderanno. Se non fosse soddisfacente il prezzo per la Liguria, oppure se non fosse sufficiente l'introito, teoricamente, dicono gli analisti, c'è pure la quota in Milano, cioè la SAI ha più del 60% sì, della Milano. Però qualcosa, per essere quasi banali, ma insomma, su qualcosa la borsa scommette, e come, perché rialzi di queste a due cifre e anche oggi un 6,5% fa bene la Consob a investigare, perché insomma, bisogna capire anche cosa stia passando, se hai blocchi oppure no, dove, insomma. Ieri in Consiglio dei Ministri è stato approvato il maxi decreto attuativo sul fisco di regione e province sui costi standard. C'è nel testo una clausola per garantire che alla fine del processo di rimodulazione delle tasse la pressione fiscale complessiva non aumenti. Però la riforma prevede un ampliamento dei margini di manovra delle regioni sulle addizionali IRPEF e IRAP. All'insù, all'ingiù, l'IRAP possono anche arrivare a eliminarla. Già attualmente uno può oscillare dallo 0,9 all'1,4%, adesso si arriverà a oltre il 3%. Siamo in collegamento con il presidente appunto della Commissione Tecnica Paritetica sul federalismo fiscale, Luca Antonini, buonasera. Buonasera, buonasera. Io l'ho presentata come l'uomo che affianca il ministro Tremonti nel redigere poi tutta la parte dei decreti attuativi. Domanda semplice, visto sì, che già adesso l'addizionale IRPEF è molto diversa dalla regione, ci sono regioni che ce l'hanno allo 0,9, Basilicata, Friuli, Sardegna, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, Puglia e Veneto. Poi quelle che ce l'hanno secondo il reddito 0,9 e 1,4, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria. Poi quelle che ce l'hanno 1,1 e 4, Emilia Romagna. Poi quelle che ce l'hanno al più alto livello, l'1,4% di addizionale IRPEF in busta paga, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia, Calabria. Ampliando lo spettro, non diventerà una giungla? E se io sono un'impresa o un libero professionista e ho un'attività da una parte e un'attività dall'altra, non rischiamo poi di far impazzire anche i commercialisti, per cui uno cerca a quel punto di scrivere l'attività nella regione dove l'addizionale, perché sa, tra 0,9 e 3% a quel punto la differenza inizia a essere tanta. No, è una giusta preoccupazione, anche se diciamo che il problema più rilevante qui non fa ripazzire i conti pubblici dello Stato più che i commercialisti, perché tra l'altro c'è questa dinamica. Cioè, quando si è stato introdotto nel 2006 il fatto che se una regione sfondava sulla sanità se lo doveva pagare, cioè quindi appunto aumentando l'addizionale da 0,9 a 1,4 aumenta automatico. Ecco, allora noi fino al 2006 avevamo una crescita della spesa sanitaria che era del 6%, dal 2006 in poi la crescita della spesa sanitaria è diventata del 3%, quindi quell'effetto di responsabilizzazione è stato molto importante, perché ha determinato una dinamica di contenimento di sprechi che andavamo a pagare tutti noi contribuenti italiani. Ricordo che l'ultimo ripiano che venne fatto nella finanziaria 2007 erano la cifra spaventosa di 12 miliardi di euro per 5 regioni in disavanzo sanitario, in extra deficit, che oggi sono ancora in disavanzo. Per esempio Lazio ha ancora 1,3 miliardi di disavanzo, era una delle regioni beneficiarie di quel ripiano. Allora, questi ripiani li abbiamo pagati tutti, non è che venivano da chissà quale meccanismo magico, erano soldi delle imposte chieste ai contribuenti italiani, tutti nel loro insieme, quindi meccanismi di responsabilizzazione più forti riguardo a una spesa che ormai è totalmente regionale determinano, hanno dimostrato che c'è una inversione di tendenza e ci determina un forte incentivo alla lotta agli sprechi. Probabilmente se non ci fossero questi meccanismi noi non riusciremo a combattere gli sprechi enormi che oggi esistono soprattutto nel settore sanitario, quindi è l'unica strada per non pagare tutti, diciamo, sprechi che non vengono affrontati. E questo chiarisce l'obiettivo, però insomma come farete a garantire da un lato la non giungla e dall'altro però anche lo stesso introito per le casse dello Stato? Beh, diciamo che la giungla è una, diciamo, variabilità che già oggi esiste, che viene, diciamo, potenziata dal 2015, potrebbero arrivare queste, diciamo, addizionali fino al 3%, però ci sono delle regole che vengono introdotte molto severe di controllo di queste dinamiche, nel senso che c'è innanzitutto un controllo della conferenza permanente per la finanza pubblica che viene istituita e deve garantire l'invarianza della pressione fiscale. Ci saranno poi delle misure anche sanzionatorie molto forti fino al cosiddetto fallimento politico, cioè se tu alzi l'addizionale e fai pagare ai cittadini i costi di uno spreco perché non convergi verso i costi standard, e a questo punto questo diventa uno dei motivi con cui tu puoi essere rimosso, cioè il cosiddetto fallimento politico. Quindi ci sono meccanismi estremamente severi e c'è la possibilità del cittadino di controllare effettivamente quello che è spesa e quello che è spreco, perché il costo standard renderà immediatamente evidente che per esempio quella sanità tu potresti renderla in modo efficiente risparmiando enormi risorse, perché dovresti ristrutturare, dovresti fare eccetera eccetera. Se non lo fai è uno spreco, oggi è un minestrone dove non si capisce niente, il cittadino vede solo che gli si è aumentata l'addizionale ma non sa quanto quella regione dovrebbe appunto spendere, ecco, potrebbe spendere per la sanità. Ha di fronte un minestrone di cui non capisce niente. Allora questo è basta minestrone, creiamo una tracciabilità nuova sulla spesa attraverso i costi standard sia delle regioni che di province. Ecco, ho capito benissimo il ragionamento di adesso. Oggi lo dico a chi scrive, parliamo solo della parte fiscale in senso stretto, perché il federalismo è una cosa enorme, non possiamo parlare dei costi standard per la sanità, già altre puntate abbiamo dedicato. Però come fate a dire che non aumenteranno le tasse? Le spiego perché. Perché insomma, voi ampliate l'oscillazione dallo 0,9 al 3%, e poi insomma siete i primi a dire: beh, se una regione non ci sta dentro, può arrivare fino al 3%. Cioè, date possibilità, è come dire alla città autostrade, potete portare l'aumento dei caselli fino al 3%. Chiaro che insomma, no, la tentazione è forte, e allora il timore che vedo io dei messaggi al 349-238-6666 è che poi di fatto le addizionali IRPEF aumentino. No, dico però la società autostrade non è che viene rieletta dal cittadino, qui stiamo parlando di una giunta regionale, di una maggioranza che deve essere rieletta dai cittadini, che ha degli strumenti di controllo assolutamente nuovi e che oggi non ha. Da questo punto di vista io ipotizzo che ci possa essere proprio una competizione a ribasso. Pensi a una regione che abbassa l'IRAP. Per abbassare l'IRAP tu non devi aver alzato l'addizionale regionale, no? Se tu abbassi l'IRAP incominci a trarre imprese sul tuo territorio. Questo è invece un cioè diciamo che di tutto il controllo secondo voi è affidato al... Non è solo un controllo però politico. No, diciamo politico, diciamo... all'elettore che dice: vabbè, se tu mi fai pagare più che in un'altra regione per servizi più bassi, io non ti rieleggo. Lei sa benissimo, insomma, al di là della legge elettorale, ma insomma, lei sa benissimo che il rischio è comunque che così non avvenga. Cioè, voglio dire, è comunque un controllo ex post. Io intanto ho già pagato un'addizionale più alta, poi dopo qualche anno vedo che le cose non funzionano, a quel punto posso decidere di non rivotare il governatore regionale, però insomma, no? Non è la stessa... non è solo questo, ci sono dei meccanismi che sono introdotti nel decreto molto puntuali, dicevo, per esempio c'è questa conferenza dove partecipano sia i governatori, gli assessori ai bilanci regionali e lo Stato, che ha l'obbligo di mantenere l'invarianza della pressione fiscale. Quindi quello lì è uno strumento, diciamo, di tipo sanzionatorio, nel senso che tu puoi anche diventare soggetto di queste manovre, ma all'interno di un sistema dove hai un controllo estremamente puntuale. Cioè l'idea è se tu puoi realizzare dei risparmi, puoi con questo diminuire la pressione fiscale, io ti do un'arma, diciamo poi dal 2015, quindi non stiamo parlando da domani, ma dal 2015 in un sistema che è andato a regime contemporaneamente ho ridotto l'IRPEF nazionale, quindi c'è una riduzione dell'IRPEF nazionale. Cioè noi oggi abbiamo sulla sanità una spesa che è finanziata dallo Stato e fatta dalla Regione. Allora dobbiamo diminuire l'IRPEF dello Stato e aumentare l'IRPEF allora, della Regione. Facciamo una cosa, Presidente Antonini. Adesso io sono in chiusura, però siccome lei veramente, lo dico senza nessun tipo di elogio eccessivo, la persona che sta redigendo questi decreti tecnici, io la rivorrei ospite, se lei è d'accordo, per raccontarci vari aspetti del federalismo fiscale, la parte IRPEF da una parte, i costi standard, il fondo sperequativo. Quindi le ridò appuntamento, e intanto ringrazio il presidente della commissione tecnica paritetica sul federalismo fiscale, Luca Antonini. Grazie, arrivederci, arrivederci ascoltatori. E siamo veramente in conclusione, quindi a me non resta che ringraziare Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione, augurare a tutti voi un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.